giorno c'erano re, befè, biscotto e menè, aveva una figlia, befiglia, biscotto e menè, che la figlia, befiglia, biscotto e menè, aveva un acello, befello, biscotto e menè. Per l'acello, befello, biscotto e menello, gli hanno bando, befando, biscotto e menando, che ne ha trovato l'acello, befello, biscotto e menello, c'era una mia figlia, befiglia, biscotto e menè. Se ne vanno degnoso, befoso, biscotto e menoso, l'ho trovato io l'acello, befello, biscotto e menello, mi date a vostra figlia, befiglia, biscotto e menello. C'è sì che non fa, c'è befando, biscotto e menando, va a tende degnoso, befoso, biscotto e menello.